volte uso questa oppure uso anche l'altra, non... Poi io lo so benissimo che il 27 entro rarissimo e più che altro stasera stavo, volevo sentire a casa e vedere come era andata la questione a Cagliari. Ho sentito com'è andata. Incredibile, a meno che non si stiano garantendo in questa maniera la loro stessa esistenza e la legittimazione a continuare a fare questo genere di esami. Boh, vai e pesca, perché l'unplane mi sembra un po' esagerato, veramente esagerato. Infatti è anche esagerato, e anche perché io dico questo, vabbè, mi hai bruciato, dammi un'altra opportunità, non è che stai portando una patente, una macchina, no. Dammi un'altra opportunità e vediamo un pochettino, poi se sarò bruciato la seconda volta ripeterò tutta la documentazione. Ma soprattutto quello che stavo riflettendo, sul quale stavo riflettendo, era il peso della valutazione che sembrerebbe spostato maggiormente sul lato giuridico piuttosto che sul lato tecnico. È questo che mi lascia un po' perplesso, o meglio io per quella che è la mia idea avrei forse tenuto a togliere dei valori di punto non in egual misura se la domanda errata veniva data nella parte giuridica, nella parte delle leggi, dei dispositivi, eccetera, eccetera. Ecco, probabilmente io non avrei tenuto lo stesso peso che su quella tecnica, prettamente tecnica, anche perché questo è un esame proprio per l'utilizzo di un apparato tecnico, la prerogativa è un uso tecnico di questo apparato, quindi mi lascia perplesso questo maggiore accanimento, sembrerebbe in quelle che sono delle falle nella conoscenza della normativa. Che ci vuoi fare? Purtroppo l'hanno deciso così e bisogna stare a quello che ti dicono loro. Non ci possiamo fare niente, io infatti a me mi viene da incazzarmi e basta. Stavo parlando con Claudio stasera per questa roba qua, purtroppo sono loro che comandano, non ci possiamo fare nulla noi. E così ce la teniamo. Io so, adesso mi immagino quanto faranno aspettare invece per mandare a me la documentazione. Adesso è tornata la ricevuta di ritorno e so che l'hanno ritirata lunedì. Mi auguro che non ci mettano un mese prima di mandarmi il documento. Oh, tu preparati per il prossimo anno, a maggio. Allora, maggio, a maggio è il prossimo anno, è l'altro esame. No, ma io non ne devo dare esami, io ho chiesto l'esenzione. L'esenzione per che cosa? Per il conseguimento del patentino, perché ho il titolo richiesto. Ma tu ce l'hai già? No, io ho mandato tutta la documentazione, ho fatto la richiesta. È con esonero d'esami perché ho il titolo di studio richiesto per ottenere l'esonero. Ah, c'hai il titolo di studio tu per bisogna che fai l'esame. È una legge, non è che... No, non te lo so dire questo, ma telegrafista? No, sono un perito industriale. Periti industriali e per altre persone che hanno conseguito delle abilitazioni sotto la ferma militare o in altre situazioni, è previsto di il conseguimento del patentino con l'esenzione dell'esame. E quindi ho mandato la documentazione, ho visto che l'hanno ricevuta questo lunedì, giovedì mi è tornata la ricevuta di ritorno ieri, e quindi adesso attenderò. Non ho idea se ci sono tempi biblici, a Claudio dovrei chiederglielo, forse lui può darmi qualche informazione in merito. La prossima settimana c'è tutto. No, non posso, Claudio, no. Un mesetto ci passerà adesso, e dopo un mese li demanderanno tutto a casa. No, la prossima settimana lui c'è già la provvisione, tranquilli, non c'è nessun problema. Chiamato io all'ingegneria, che appunto gli ho chiesto come erano andati gli esami, e poi ho chiesto appunto di questa documentazione di Salvatore, che sono quelli di esonero, non ci sei solo tu, ce ne sono altri 3 o 4. Sono esonerati tutte le persone che hanno un titolo di studio di perito elettrotecnico oppure abbiano proseguito il servizio militare come radiotelegrafista, come l'ho fatto io. Capito? Quindi siccome io l'ho saputo in ritardo, la prima licenza l'ho data, la seconda mi hanno esonerato. Tutto lì. No, caro, perito elettrotecnico deve fare l'esame, non esiste più. Chi ha le cose di telegrafista, quello le danno le cose, il patentino. Però chi è perito elettrotecnico, quello che ha fatto l'esame, diciamo a me, era un perito elettrotecnico con tanto di diploma, nulla da fare. Prima lo davano, adesso non più, devi fare l'esame. Scusate un attimino che mi devo allontanare un 5 minuti. No, Luci, ancora vai tranquillo, non dici che sono un imbecille, Salvatore non è un imbecille, ci sentiamo dopo, vai Salvatore. Claudio. E lui? Ma la puoi fare un basso, la cortesia? Aspetta un secondo, aspetta Salvatore un attimo, perché forse mi sta confondendo con quel diploma che danno a regalo all'INAPI, allora sì, ma si tratta dell'industriale, che non è un'altra cosa. Dai, fagli la bassa a Falchetto, che mi sono dimenticato di dirtelo, Cla, che ti stava cercando. Sì, vediamo se c'è qualcuno di servizio, perché l'altro mi si è messo a scarico, spento. Sto dicendo, Salvatore. No, dicevo che forse, se c'è una spiegazione, è la differenza tra il diploma di perito industriale in elettronica e perito industriale in elettrotecnica. Non so se forse lui stesse facendo riferimento al diploma di perito elettrotecnico, per il quale forse prima si poteva avere l'esonero e poi è cambiato qualcosa, ma non ne ho la più pallida idea. L'unica cosa di cui mi hanno confermato anche a Cagliari, infatti, era il perito industriale in elettronica, di questo titolo. Non so se c'era anche per altri titoli di studio. Molto, molta gente diceva di essere, io sono diplomato in elettrotecnica, ma dove sei diplomato? All'INAPI, non è fatto l'industriale, e quello lascia un valore. Bisogna avere il titolo di perito elettrotecnico, perito, perché anche Vittorio c'ha il diploma di elettrotecnico, ma non è eseguito all'industriale, e quindi la gente l'ha dovuto fare. Quindi chi ha il diploma dell'industriale come perito non è elettronica, allora quello è esonerato come chi ha fatto il radiotelegrafista, che quindi una volta che conosce il codice Q per loro è utilizza, devo dare anche un'altra cosa, che tu la magari non utilizzi più di me, dai. Beh, io ci vediamo di domani mattina, ci vediamo perché qui scappo, non c'è problema tu. C'è anche Antonio Romeo, ma Antonio Romeo non ci si. Non c'è. Vabbè, sarà per comunque io ci ho parlato e mi ha detto l'ingegnere che finisce le sessioni d'esame, i compiti praticamente li hanno corretti, non ne hanno neanche corretti, hanno guardato le risposte, quindi hanno fatto l'esito, perciò prima invece ci voleva almeno una settimana più per correggere i compiti. Invece adesso è tutto già a posto e perciò mi ha detto che la prossima settimana iniziano a mandare le lettere di esonero, capito? Nelle provvisorie, quindi sicuramente ti arriverà la prossima settimana. Antonio, ascolta, comunque che sappia io, guarda, quella persona, tanto di diploma, prima con perito elettrotecnico gli facevano fare l'esame, adesso invece gli fanno fare l'esame, non vale più quel discorso lì, invece c'ha il coso di telegrafista, lo mi sembra l'esame non ne deve fare, come normative, poi la questione dell'altro amico che stiamo parlando lui, lì non te lo so dire, quella non lo so, però quello perito elettrotecnico, quello ha fatto l'esame. Se non mi aveva l'ha fatto, se lui ti ha detto che è perito elettrotecnico oppure c'ha il diploma di elettrotecnica come c'ha Vittorio, capito? Eseguito all'INAPI, però non vale a niente. Chi ha fatto l'industriale ed è perito industriale in elettronica è esonerato come il titolo che c'ha Salvatore. Ha già mandato tutto, gli hanno accettato l'esonero del Salvatore, già tutto a posto. La prossima settimana lui c'ha l'esonero con la provvisoria, quindi nominativo e licenza provvisoria. Dopo la licenza provvisoria ci passa un mese per la definitiva. Però lui la prossima settimana c'ha già nominativo, non c'è problema. Non l'ha mandato a me. Come quando mi ha esonerato dalla telegrafia, perché io avevo già conseguito l'esame, il primo non lo dovevo fare, però non lo sapevo, l'ho fatto, ma è stato un orgoglio personale perché sono passato la prima, quindi non mi ha fatto nulla. Come Massimiliano era esonerato, però è andato lo stesso perché al diploma di perito in elettronica, e quindi non doveva andare, ma è andato lo stesso, perciò non c'è problema, anche lui è passato la prima. Il titolo di Salvatore è validissimo, capito? Non è valido quello che ha il diploma di elettrotecnica eseguito all'INAPI, deve essere perito industriale in elettronica, quindi sono tutti esonerati. Pronuncio altro, c'era anche quella persona al giorno a Cagliari. E infatti dice prima non ci voleva, infatti l'ha detto anche lui, prima non ci voleva, adesso dice devi fare l'esame, era lì lui, anche lui era il terzo esame che dava, insomma mi sembra che avesse 57 anni o 58, non mi ricordo bene, e purtroppo anche lui ha dovuto dare l'esame, no, craccate anche a lui, più figurati se era stato quel signore di Valle d'Uria, poi ce n'era uno del Norese e poi gli altri non mi ricordo, erano tutti la zona di Cagliaritano. Vabbè, registrato il break, no, comunque non è così. Essere utile, volevo dare informazione in termini precisi secondo la circolare del Ministero. Sono esonerati dalle prove scritte i diplomati, quindi tecnici in elettronica o titolo equivalente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato. Se quello l'ha presa via posta e quindi non è riconosciuta dalla Stato, è chiaro che la patente non gliel'hanno mai. Quindi tutti coloro che sono diplomati come tecnici in elettronica oppure anche come periti industriali, evidentemente, perché sono titoli equivalenti. E questa norma le consente di non fare esami. Claudio, invece ti volevo chiedere una cosa perché mi sta sfuggendo. La licenza di quante? Di 10 anni, confermi? Sì, il cambio nominativo mi sembra l'hai avuto anche tu nel 2005. Sì, nel 2005, però la licenza ce l'avevo da prima, quindi lo conteggiano dal cambio nominativo, esatto. Certo, va conteggiato dal cambio nominativo, quindi nel 2017, entro il 2017, un mese prima bisogna spedire la documentazione e fanno l'aggiornamento. Stai tranquillo, c'è tutto sotto controllo. Scusate un attimino, scusate se vi rubo Claudio e l'altro amico, io vi devo lasciare, devo fare carica batterie, casomai ci sentiamo dopo. Ciao Claudio, ciao anche all'altro amico, comunque che sta modulando la stazione Romeo 1, operatore Arturo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Romeo 1, ciao, ci risentiamo alle prossime, ciao Antonio. Claudio, mi devi una per cortesia dire questo, questa è la domanda, la tassa per il CB, quella la devo continuare a versare o viene tutto quanto assorbito da questa nuova diciamo licenza? No, la tassa CB è la tassa CB, eccetera, non per un'altra cosa. Non è me, io ne pago due, pago 12 euro all'anno per la CB e 5 euro per la tassa di Radio Matteo. Continuo a pagare, poi più l'anno pago di cose di affitti. Una volta che convogli tutto, la sintonia continua dove c'è gente ti ferma e parli, chi è che te lo proibisce? Infatti facevo questo ragionamento qua, se ho la possibilità di parlare a sintonia continua, posso parlare a sintonia continua anche nelle bande della banda cittadina, nelle frequenze della banda cittadina, o devo necessariamente comunque continuare a avere quel versamento? Assolutamente no. No, lo dico io, ma è come che tu dica già per la stessa cosa. Allora, dobbiamo sapere che la legge vuole per tutti. Noi radioamatori in 27 dobbiamo modulare col baracchino, non dire mai a nessuno che tu stai modulando in 27 da radioamatore con una KF, perché non esiste. La legge vuole per tutti. Anche i radioamatori nella banda cittadina devono usare il baracchino omologato dal canale 1 al canale 40. La legge vuole per tutti. Capito? Quindi quella è una concessione, quello è un passaggio che bisogna fare, la KF è un'altra cosa, equivale solo ai radioamatori che devono parlare nelle bande amatoriali. Il 27, un radioamatore patentato radioamatore deve avere la concessione per la 27 e parlare col baracchino, non con la KF che usa per fare radioamatore, sia ben chiaro. Ok. E quindi continuare comunque a fare il versamento allora a questo punto. Certo che sì, continuare a fare il versamento e continuare a usare sempre lo stesso baracchino, dal canale 1 al canale 40. Poi tutto il resto sarà per noi, non interessa a nessuno quello che dici tu. Però la legge è chiara, dal canale 1 al canale 40, baracchino. La legge uguale per tutti, per noi radioamatori e per i CB. È sempre la stessa la legge, non cambierà mai. Ognuno deve parlare col baracchino 27, lui tutto il resto mi ha già capito, l'importante è che io sto usando un baracchino, punto, il mio baracchino è un HB23 con un tavolo che tra da tavolo, nessuno mi impedisce di che posso usare un microfono da tavolo perché non mi piace tenere in mano un microfono normale e basta, si finisce lì, batto il vero dal canale 1 al canale 40, tutto quello che usi sono problemi tuoi, l'importante è che non lo sappia nessuno. Claudio, ma il diploma lo può prendere anche Bonconi o se non vale l'altro? No, negativo, Bonconi non è perito, Bonconi ha già il diploma di elettrotecnico dell'INAP e basta, non è un perito, la legge è quella chiara, periti industriali o tutti quelli che hanno eseguito un diploma di Stato inerenti all'elettronica, lui non è elettronico, lui è un coso, come si dice, un compugno. Ho capito, va bene, lui ha professionale che non ha nessun valore ai termini di legge, come diceva Gianfranco. O sbaglio, Gianfranco, anche per noi radioamatori la legge è uguale per tutti, giusto? Sì, confermo, perché dal punto di vista, lo vogliamo dire, giuridico, non parliamo neanche di concessione civile, parliamo di autorizzazione generale. L'autorizzazione generale è quella che viene rilasciata a CD per trasmettere con apparati rigorosamente omologati da 1 a 40, potenza massima 5 watt, ma d'altronde se sono omologati devono già avere quella potenza. Nel momento in cui tu li apri, li modifichi fai qualche modifica, perdono immediatamente l'omologazione, quindi vengono considerati abusivi e cose di questo genere, eccetera, eccetera, eccetera. Sono vietatissime anche le direttive, sono vietati ovviamente anche i lineari e tutti gli accessori atti a modificare i parametri di omologazione, quindi anche l'effetto eco in teoria dovrebbe essere vietato perché incide sull'emissione ulteriore di spurie e cose di questo genere. La licenza del radioamatore chiaramente è un'altra cosa, perché è il frutto di un esame, di un'abilitazione, quindi all'uso, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, quindi nel 2015 la dobbiamo rinnovare, se sono 10 anni. Nel 2005, da quando ti hanno mandato il cambio nominativo, quindi io ce l'ho qua, oggetto dell'evento cambio nominativo in base all'articolo Bimba, eccetera, eccetera, è adattato Cagliari 9/10/2005. Allora al 9/10/2017 tu devi mandare a Cagliari per rinnovare la licenza, o Gianfranco, perlomeno la mia è così, ho già chiamato la signora Secchi e mi ha confermato la stessa cosa. Il certificato generale, quello che ci hanno dato, del cambio nominativo, quello va legato alla licenza e alla patente del doppio zero, Sì. Vabbè, poi dunque tanto. Tra qui a... quanto ci manca? Cosa siamo? 11, ci mancano 6 anni. Quindi, insomma, già, per così poco già ce lo ricordiamo, non siamo così smemorati. Non so, però se sia già morto, quindi in realtà ce la fa mia figlia di cammino nati. Ma siamo a tutti. A quando 2017, non so neanche se ci sono, vero? A 2017 sono più di 60 anni da ce la fatti. Quindi vediamo, vero ce la fa. Magari sarò già morto. Oppure sono senza venti, ma... Stai sempre spingendo. Push, push. Push, push. E piedini, piedini, class. Piedini, piedini. Allora. Non tanto l'hanno detto, c'è cioè, che... Ma... c'è cioè, che... Ma la mia licenza non scade. Aspetti che guardiamo il computer, l'altro nominativo. Neanche imbecille, perché un po' come il microfono. rinnovano, sono troppo vecchi. Ci sono questi, li lasciamo andare tanto, la macchina. Ce ne sono tutti, non so se pensano in diretta. No, ti fanno modulare, no? Tranquillamente, anche senza niente, tanto dicono questi sono estinzione oramai, l'importante è che ci paghino, che ci diano la carta, poi. Mille amiche, oggi ho fatto proprio un giro di conti, ho perso l'ufficio e pensavo 5 anni, anzi 6 con il 2012, pensavo aver finito, invece mi serve, caro Salvatore. Ho preso la prima questione con i miei colleghi, ma è vero che abbiamo approvato la legge a 67 anni. Zeta, che intanto devono fare tutti quanti i calcoli, c'è tutto quanto il procedimento di calcolo corretto da fare, bisogna vedere qual è il coefficiente, se sarà 100, se viene confermato 100 o se per i rumori interni e i malumori, soprattutto interni, viene abbassato, quindi 100 sempre il famoso discorso del 65 più 35 o 67 quindi più 33, bisogna vedere queste cose qua. E poi ci sono il discorso che si andrà a regime dal 2026, quindi tutto ciò che sta prima da qui al 2026 chiaramente presumo rientrerà in un'altra fattispecie, mi auguro, perché tutti coloro che sono lì allora si vedrebbero il traguardo ogni volta che stanno per attraversarlo spostato di un altro metro e così spostato di un altro metro ogni volta che ci stanno per arrivare, non credo che sia in questi termini. Ma io sabato mi hanno detto vedevo bene 40 anni di contributi e in pensione si va a 67 anni, così hanno detto, poi bisogna vedere come si evolvono le cose. Ma se tu 40 anni li hai raggiunti che ne hai 65, puoi andare oppure no? Perché 40 anni più 65 fa già 105, se il coefficiente è 100 e c'è qualche cosa che non quadra in questo discorso. Eh sì, è anche quello vero, ma che dire. Va bene, riprenda qua. E così abbiamo detto, adesso vediamo vedere. Io se ho, guarda, 2 anni di contributi anche troppo. Dai. No, davvero, davvero. Stai scherzando? No, no, davvero. No, no, non scherzo, davvero. E la miseria. Ma tutto fai da te. Purtroppo. Cosa vuoi dire? Tu convinto lavorando mi hai assicurato, invece poi ti sei accorto che me la sono presa come se l'hanno presa gli altri. Accidenti, e mi stai dicendo niente. Ma hai pensato a forme comunque integrative? Sì, sì. Perché sennò sarebbe una bella rogna. Oh, io ho un collega d'ufficio che tra l'altro è stato assunto una decina d'anni fa ed è insomma praticamente credo che sia forse è un vostro coetaneo o giù di lì e lui mi ha detto che era una vita che ha sempre lavorato senza contributi però si è trovato sempre bene perché la parte contributiva se l'è sempre organizzata al meglio e non ha rimpianti. Però io gli ho detto sì, ma scusami, ora che stai iniziando a entrare come lavoratore dipendente e hai, all'epoca c'aveva 40, 43 anni, adesso ne dovrebbe avere mi sembra 53, è come se tu stessi iniziando praticamente da zero e quindi, cioè 70 mila tanto, oggi è come se avesse 12 anni, fai 13 anni andando bene i contributi. Certo, con la forma contributiva nel quale comunque anche tu adesso ricadi corri il rischio di andare in pensione a 70 anni abbondanti. Lui, sai cosa mi ha risposto? Non me ne fotte nulla. Beh, in effetti è così, In effetti lui sta... qualche modo rimettiamo a capo. È un macello. Io mi potevo salvare quando avevo la mia assicurazione. Io pagavo un'assicurazione privata, e adesso ovviamente non la pago da anni, però quelli che ho pagato mi ritornano, capito? Però è poca roba, dai, non c'è niente, capito? Non c'è niente. Purtroppo quando io lavoravo tutti, sì, tu sei tutto in regola, tutto a posto, invece alla fin fine poi sono venuto a scoprire tramite l'Inps che ero anni che lui non versava neanche una marchetta, ma c'è, vai, ma c'è. Accidenti, e che cosa seria? Accidenti. Perché poi, come al solito, le cose vanno bene finché vanno bene. La realtà era sicuramente completamente diversa rispetto a quello che adesso, poi casomai le aspettative venivano completamente disattese da comportamenti strampalati dei datori di lavoro, però una situazione oggi come oggi sarebbe veramente drammatica. Sì, è molto molto critica, ma riprende da qua, è purtroppo così. Scusate, sono entrato e ho fatto il salvavita, non so perché, forse c'avevo troppo carico, c'era il forno acceso e bingo e bongo erano qui, qua la sera erano dei Caraibi, i più ne ha più ne metta. E tu, che calcolo avevi fatto almeno in linea di massima? Un'altra, praticamente tu ti rifatti i conti di almeno altri 8 anni? No, io ho 7 anni, ho 40 anni di contributi, però sono preoccupato perché non so se posso andare in pensione, capito? Io potrei andare in pensione a 58 anni compiuti, quindi però ho raggiunto il massimo dei contributi. Dunque 58 e 40 fa 98, già con la legge attuale saresti già idoneo, con questo scivolamento però se loro hanno considerato di mandarla a regime al 2026 dovresti comunque rientrarci, perché anche portandola a 100, Dio mio, a uno che è lì per poter andare, non credo che gli dicano no, adesso aspetti altri 5 anni perché ho altri 7. Mi sembra un po' un'assurdità, perché tu a 67 ne avresti 49. Claudio, scusa, vi sto lasciando, buonasera a tutti, ciao. Ciao Gianfra, ci ascoltiamo alle prossime, grazie del tuo intervento come sempre, buona cena. Sì, effettivamente è così, quindi io spero di poter raggiungere questo limite a 58 anni, sono anche mezzo rincoglionito adesso, quindi immaginate a 67 anni. Ciao Gianfra. Ciao Gianfra. Mi fa ridere. Avrai sempre il mic in mano. Beh, la normalità, già sono saluto adesso, ho questo lavoro, ma gli anni fa 67 anni, starei a crescere il capre, perché io ho colleghi che hanno studiato tantissimo, ma deve essere il piano molto bassi, perché prima di capire una cosa devo fare a capre, capito? Devo arrampicarmi e farle vedere come si fa, come non si fa. Qualche giorno mi trovano dentro quattro bastoni per far vedere il lavoro a loro. E poi quindi alla fine, a 67 anni, non credo di poter sacrificare ancora la mia vita, sono veramente 17 anni lavorando. Lavoravo e studiavo. Quindi ho fatto anche tutto apprendistato, era una cosa allucinante da fare perché ti prendevano. In 8 ore di lavoro ti prendevano 7 ore e mezzo a calci nel culo, quindi cosa devi fare? Penso di essere arrivato. Eh sì, senti, non per farmi gli affari tuoi, hai fatto. fatto una verifica del tuo estratto all'INPS? Tutto mi l'ho fatto, l'estratto conto c'è nel rosso. No, non è proprio la stessa cosa. Proprio stamattina, c'è proprio qui, e poi io sono per il diavolo di Tiglio, e tu mi fai il tempo conto per favore, mi trovo il rosso, quindi, così, c'era un fattoretto bianco, mi sono arreso, e tu mi trovo il a metà. No, sapete che cosa ho fatto io recentemente? Mi sono fatto la carta nazionale dei servizi lì alla Camera di Commercio e con un lettore di smart card e un computer vi fate le visure della vostra posizione previdenziale, oltre a quelle che sono gli eventuali insoluti che uno potrebbe anche avere con Equitalia. Ed è molto utile perché puoi andare a scoprire anche se casomai mancano settimane o dei mesi in quelle che sono state le denunce pregresse da parte del datore di lavoro. No, io ultimamente ho chiesto all'azienda, me l'ha fatto l'azienda, la posizione INPS, ho visto che tutto era a posto, anche tutti gli estratti conti dell'INPS mi sono arrivati a casa perché mi ha chiesto l'azienda e con quello sì, con quello l'ho fatto. E ultimamente infatti i conti esatti, questo a 2 anni fa me l'hanno mandati, 2 anni fa erano 9, adesso sono 7. 7 anni che mi mancano, sono la complicazione. Però sono nel segno 51, quindi più 7 sono 58. E però, che ne so io, sabato? Vediamo, perché c'è qualche imbecille che sempre magari lascia degli stralci di contributi non versati, quindi alla fine poi fa un accumulo e perciò bisogna stare molto attenti. Ma nell'ultimo calcolo che avevamo fatto, proprio assieme al commercialista nostro interno, è un commercialista, hanno detto che non, secondo loro non c'erano problemi qui nel petto. Bisogna vedere. Però salvo complicazioni, io ho 58 anni, un giorno dovrei andare in pensione. Salvo complicazioni, se toccandomi la yo-yo non muoio più. E la miseria, speriamo proprio di no. Vabbè, se muoio prima ti lascio la radio, almeno qualcosa hai guadagnato. Ma siccome io so che tutto un mese e mezzo sbaracci tutto, mi rimane la BC60 e botto. Ah, io ho scritto qua, c'è un post scritto che tiene mia figlia dentro una busta, dove c'è scritto se io muoio all'improvviso, assieme alla barra devono mettere il gancio da treno perché voglio tutte le mie radio assieme a me, col carrello. Ed è giusto. Io ho assistito, io personalmente proprio, qualcuno se lo ricorda, povero Angelo, Bifo si chiamava. Come sei andato tu? Dicendo, non mangi con loro. Bene, allora stanotte c'ho 2 piatti in più. Non ti devo dicendo, c'era fuori con gli amici. vita una cosa del genere. E vabbè, se era anche un grande appassionato, perché no? Mischino, a Simoncelli gli hanno acceso la moto in chiesa, quella veniva un po' male, mi ha tirato dentro la bara, ma il baracchino ci sta. Ah, ci sta, dai. La sua volontà è stata rispettata, meglio così, dai. La moglie mi ha detto, per quanto era fuggita, che poi lì abbiamo detto dopo che insomma era finito eccetera, siamo andati e allora si usava, non so se si usa ancora, andare per Barabella eccetera, e poi una settimana dopo mi pare che c'era promozione e quindi sono andato avanti a Righello e conosciamo per venire, ogni tanto ci sentiamo, cioè la moglie e mi ha detto ma riconosce questo Paolo, mi toccate, ma se si scarica il pacco batteria io non lo sento più Angelo, tu immaginate quanto era fuso. Allora mi è venuto spontaneo per cercare di farla ridere un po', ma lo sai che non ci ho pensato neanche io, quasi quasi gli avrei messo il veicolare con l'alimentatore, la cosa le avrei attaccata a culo. Il pagamento e quindi automaticamente come tu continui sempre a pagare la Sandro di Porto Torres. L'unica cosa che farò io, e questo è da sottolineare per Salvatore, è che per riconoscere il mio funerale, sopra la bara io ci avrò un antennino piccolino da 10 cm rotondo e ci scriverò Falcos. Non è possibile. Sono col 43. la Chiara va più che bene, diciamo anche come segnale, magari diciamo ti trovi anche in una posizione abbastanza favorevole, diciamo, dai. Sì, sono bello aperto, non ho palazzi più alti del mio vicino, comunque più alti dell'antenna in prossimità, e quindi non ho neanche effetti di distorsione di segnale per effetti di rifrazione o quant'altro, non ho trasmissioni di altro genere sopra che mi avrebbero potuto disturbare casomai l'onda portante, ma sono proprio libero e con l'orizzonte libero, quindi credo di avere una posizione diciamo ideale per questo genere di trasmissioni. Ecco, allora va più che bene. Va più che bene perché allora diciamo che l'antenna diciamo sta irradiando effettivamente diciamo a 360 gradi. Quindi diciamo in trasmissione non ha ostacoli, quello è molto molto importante sulla trasmissione. E poi diciamo che l'apparato diciamo lavora anche meglio, diciamo non risente diciamo di degli effetti di rientro o così via. Va bene. Sì. Poi soprattutto avrebbe dato fastidio qualche rifrazione dell'onda, per cui poi comunque mi avrebbe aumentato il rumore. Invece sono tutto quanto libero, in un palazzo comunque di per sé alto, l'antenna l'ho montata su un palo a sua volta di altri 3 metri, di uno stilo che è di 7 metri, quindi bella alta, libera. Infatti modulo anche proprio con un wattaggio irrisorio, ma tant'è, siccome comunque tutti quanti mi sentite bene, sarebbe stato da stupido comunque tirare l'apparato, perché tutto sommato risponde bene anche con questo wattaggio. Sì, no. Vuol dire moltissimo, perché delle volte magari uno si trova in certe situazioni un po' particolari, in punti un po' disagiati, e allora si trova lì diciamo a poter caricare un attimino, in quel senso diciamo che logicamente carica per poter farsi sentire, caricando logicamente stiamo andando a caricare sull'apparato. L'apparato diciamo non sta erogando effettivamente come deve andare, magari il rosso diciamo è un po' elevato, allora devi girarti diciamo l'accordatore sappiamo benissimo che ti attenua l'apparato, però in antenna è sempre quello là, quindi diciamo quando si raggiungono certi obiettivi diciamo adesso come il tuo, io per dire di fronte a me verso Sassari figurati che ho un palazzo, quindi diciamo che il segnale rivolto verso Sassari diciamo mi rimbalza un po', sono molto molto favorevole nella posizione in cui sono, io libero verso il nord verso Santa Teresa, Palau, tutte quelle coordinate lì, è negativo invece per Alghero, però tutto ciò diciamo non è che mi possa lamentare, perché insomma ho visto che Sassari diciamo mi ascolta abbastanza bene, diciamo non ci sono problemi, senza dover caricare logicamente. Esatto, io guarda, adesso che hai fatto quella regolazione ti sto ascoltando veramente bene, con un segnale 9,5 modulato, stabilissimo, non ti trascini niente sotto, veramente pulito. E vabbè, come ti ascolto, guardi. Arriva queste, bonsoir. E io già ci sono 80, vi ascolto, il computer mi stava ascoltando e mi Adesso vi faccio quattro chiacchiere. Non devo più voce, è ancora più. Buona estate, mio hermano. Ciao, ciao. Ciao, adesso. Sì, ho acceso lì. Invece perché c'avevo stasera. Ho fatto girare un po' di apparecchio, c'avevo le... il Midland attaccato. E stavamo facendo la regolazione del microfono con Clark. Adesso dialogo a me. E lo spento e mi sono riattaccato la mia chiacchia capita anche se non c'è il microfono, lo dico io, ma bisogna che mi sopportiate così per un paio di giorni. Oh, già, hai visto che bella modulazione c'è Sandro? Allora è stato diciamo un piccolo accorgimento di Salvatore, siccome io poc'anzi, allora adesso ritorno, Salvatore ritorniamo indietro, ok, io in effetti ero così, diciamo che c'avevo il Mac Game, l'apparato tutto quasi, adesso ce l'ho quasi su 7 più o meno neanche, e infatti Salvatore dice è tutto qua, è tutto quanto, infatti è così, infatti adesso ce l'ho, allora, 1, 2, a 3, com'è già? Adesso la radio è più pulita, meno sporca di prima e più chiara, secondo me. Ok, 3, vediamo a 4, lo metto a 4, così com'è? Già stai iniziando a portarsi dentro. 3 va bene, lascialo a 3. E allora lo lasciamo così, dai. Lo lasciamo a 3. Va bene? Prova 2. Questo mi guarda con la colonna ottimale, quella che si avvicina di più e ciccia. Prova 2. Allora, adesso a 3. Allora, adesso a 2. Ma non ha cambiato niente dalla mia parte. Cos'è? Adesso non lo so, allora adesso è a 1, adesso è a 2, adesso è a 3. 1 è perfetto dalla mia parte. Addirittura 1. Oh già, senti il passaggio. L'ho ascoltato, anche per me così. No, non mi dire, dai. Beh, non esageriamo, ho visto solo lo smitter che si è mosso, eh. Non è uscito adesso. Allora, vediamo un po', ecco, adesso l'ago dello smitter lo vedo muoversi. E in effetti sono a 1. Ah, è perfetto, dalla mia parte è perfetto. Ma è basso, non è molto forte. E non guadagna niente di radio, eh. Se prima a 3, vedi la differenza da 1 a 3 è che a 3 sì la radio è un po' più forte, ma si porta dentro è come se stessi viaggiando con finestrino abbassato. Quello già lo sento tanto io. Allora se il suo interesse è farsi sentire nella maniera più pulita possibile, visto che bisogna avere solo proprio un orecchio per distinguere la radio leggermente ma infinitesimalmente più forte a 3 rispetto a 1, 1 è la quadratura giusta. Allora aspetta un attimino, io adesso l'ho messo a 2. Così dovrebbe essere, diciamo, una via di mezzo. È un giusto compromesso, perché a 2 si sente già un po' di sottofondo, ma un po', proprio un accenno. Addirittura. Allora, aspetta un attimino, io adesso voglio escludere. Un attimino, diciamo, Gianni mi ha già capito, la modulazione dovrebbe aver cambiato. Come fai? Gianni ha cambiato la modulazione. Guarda. passaggio qua, aspetta un attimino, a questo passaggio qua. No, non ha cambiato nulla. Non ha cambiato nulla. Ehi, vabbè, è il mic, è l'amplificazione che c'ha in sé, dai. Quando dici poi la S o le consonanti, tende a sottolinearlo, nella modulazione vengono, diciamo, sottolineate. Capra. No, no, mi sono accorto, guarda, che ha una... Tu considera che io adesso il mic che vendo all'apparato è 2, figurati te. No, no, guarda, c'ha di radio, poi a considerare, diciamo, che ha un mic normalissimo da palmo. Logicamente all'interno sarà tutto lavorato, logicamente. Sì, comunque guarda, secondo me adesso hai trovato un giusto equilibrio. La radio è bella pulita, forte, si sente bene, il segnale c'è, almeno insomma, poi è soggettiva la cosa, lo sai. Sperate che io invece tolgo il mio potessore, così evito di farvi entrare la TV che si sente qui in casa. Ok, dai. Va bene. No, senza processore ti abbassi completamente, sarà troppo. Lo so, ma era per non farvi arrivare il suono dell'audio della TV. No, ma non... quasi quasi non si sente, e poi se si sente proprio in sottofondo, non è fastidioso. Vediamo, e se io ti aumento invece il mio mic per compensare il processore, se lo porto ad esempio, ecco qua, beh, troppo? No, va bene, perfetto. Compensa la mancanza del processore? Vabbè, adesso sei senza processore. Inserendo il processore tu adesso dovresti aumentare al doppio. Fai un passaggio col processore senza. Allora, questo è un passaggio senza il processore. Questo è un passaggio con il processore. Sì, sì, diciamo che col processore leggermente, diciamo, tende a spingere di più. Allora, diciamo, anche senza processore, diciamo che sei abbastanza chiaro, comprensibilissimo. Scusami. Ok, ho sbagliato io. Ora sono con il processore. Ah, ecco. Vabbè, adesso proprio guarda l'amplificazione a 1000. Ecco, allora adesso sì. Adesso il sottofondo della TV si sente. Prova a schiacciare la portante senza lavorare. Sì, diciamo che si è portato dietro, diciamo, un po', diciamo, il cuore a qualcosa del genere, però perché effettivamente che col mic gain si leggermente un po' alto, abbassa leggermente il mic gain. Adesso è leggermente più alto di come modula normalmente. No, no, no, no. Quanto ce l'ha il mic gain? Allora, solitamente il mic gain io lo tengo così come erano i passaggi di prima, così, praticamente a 1,5. E va bene, va benissimo. Va più che bene a quel livello lì. Ma anche se, diciamo, si sente qualcosa, diciamo, un televisore o qualcosa del cuore a, purtroppo è normalissimo perché stai usando un amplificato, una determinata radio, e quindi diciamo è normalissimo. Lo so, sa, però è anche, insomma, rendere piacevole l'ascolto negli altri componenti della ruota. Sì, vabbè, ma è tollerato, capito, Salvatore, quello che ti volevo dire io, è abbastanza tollerato, non è, diciamo, quella grossa amplificazione dove proprio ti si distorce la modulazione, dove per dire fai il piccolo movimento con i piedi e senti il movimento dei piedi, capito? Eccessivo, quello dà fastidio. Ho capito. Però se lo porto a 2, quindi secondo te è comunque troppo, adesso a 2 è il mic. No, è troppo. È troppo perché ti va a comprimere la modulazione. Sì. E queste prove proprio le avevamo fatte con Claudio, infatti avevamo trovato proprio il punto preciso a 1,5. A 1,5 con un carrier praticamente a 2. Con 10. Quindi questo è il mio standard. No, vai, più che bene, bella chiara, bella limpida la modulazione, no? Va benissimo. L'ultima curiosità, lo stai usando MC60? No, il 43S, l'originale. Addirittura l'originale. Aspetta un attimino che voglio fare una piccola prova, 5-10 minuti che faccio scaldare e poi vediamo un attimino, aspetta un po'. Assolutamente, siamo qua. Adesso do una voce a Gianni perché non vorrei perderlo. Già. Gianni, non mi dire che ti sei addormentato. Doppio room. Dai. Cioè, inizia ad avere la voce impattata dal sonno. Ma stai scendendo in moto al lavoro? Sì, sono sceso in moto, si stava un bel bene. Sono sceso con una temperatura di 23 gradi, alle 50, alle 5, sono risalito con la temperatura dai 20 gradi, è sceso alle 19, verso le campagne, verso dove c'è l'età, tutto lì c'era caldo, si stava bene. Via. Ma c'hai il tuo è uno scooterone, giusto? Capa, è il burro, ma è su tutti i 400 ultimo modello. Ho capito. Ma quello già è con le centraline originali o anche lì hai ritoccato qualcosa? No, è originale come l'ho comprato, non ho toccato le centraline. Ma comunque la stai usando, l'hai usata molto quest'anno, o sbaglio? Sempre, da quando ce l'ho io la uso per andare a lavorare, quindi meno male fai 80 km al giorno. Un ottantino sono, di meno. Sì, 40, è 40. Perché due volte ci vai? E non ti conviene fermarti direttamente per mangiarti qualcosa? No, mi devo fermare dall'1,5 alle 5,5. Cosa faccio? Eccomi. Qui là. Vieni avanti, questo è interessante. Ok. Allora, guarda, io adesso sono quello. Palmare, capito? Adesso non inserisco l'MC60, ti voglio far sentire il palmare, com'è? Ah. Perfetto. Ok, considera che metti che in quasi a 1,5, ma neanche. Era registrato il break. Fai un passaggio un po' più lungo. A quanto c'è il carrier? Allora, aspetta un attimino. Guarda, il carrier adesso è partito a 10. Ok. E il processore ce l'ha inserito? Allora, adesso il processore è inserito. adesso il processore è disinserito. Allora, è sceso il segnale, ma la modulazione è più chiara, a meno che non fosse troppo spinto il mic. O è troppo basso o è un po' troppo alto, non lo so. Allora, aspetta un attimo. Adesso mi si inserisco sul processore. Sollevo leggermente il mic. Vedi un po'. Come l'hai sollevato leggermente, ha acquistato tantissimo. Ecco, questo è il palmare. Questo è il suo palmare. Il carrier è a 10. Sì, sì, diminuisci. Ok, aspetta un po', così va bene. Più o meno io mi regolo dai picchi. Mi regolo dai picchi del lago della modulazione. Così va bene? Sì, sì. Buonasera Antonio. Siamo con Sandro, già nel doppio room, è un altro break che c'era stato prima, che adesso facciamo vedere. Secondo me va benissimo, praticamente ce l'hai come, credo, come ce l'ho regolata io in questo momento, se non sbaglio, vero sa? Sì, esatto, diciamo che sono al pari basso di come sei tu. Adesso i picchi di modulazione miei da 10 mi salgono quasi a 50, e tu di quanto vi salgono? Ok, da 10 a 50, 55, sì, siamo lì. Ecco, come vedi, siamo al pari passo. Perfetto, sì. Sì, veramente, veramente bella. In quell'altra maniera, come stavi modulando prima, addirittura non avevi il sottofondo che hai in questo momento. Ok, allora, aspetta un attimino, Io adesso, ok, vediamo un po', ok. Io adesso ho cambiato, ho messo l'MC60, vedi un po' com'è? Beh, il corpo ha aumentato sicuramente, indubbiamente, proprio come, credo proprio anche come bassi è molto più corposo, è proprio più corposa e più quantità è la modulazione. Sì, beh, certo, diciamo che siamo passati da un palmare diciamo a un mic da base, nonché diciamo il 60, ma considera che il carrier diciamo è a 10, adesso logicamente i picchi di modulazione sono maggiori, perché da 10 sale quasi a 100. In questo momento lo stavi leggermente diminuendo? No, non ho fatto niente. Ti sei allontanato leggermente dal microfono? No, sempre alla solita distanza. Ho capito. Ok, era giusto per capire anche se è semplicemente una variazione nella tonalità a seconda dell'impronta che viene data durante la parlata. No, va bene, diciamo che lo sopporta, guarda. Allora, vediamo un attimino. Ok, adesso ho portato il carrier a 20, adesso non so se la modulazione adesso tenta di comprimere. No, ancora no, e praticamente adesso sei in termini termini di segnale con una radio leggermente più bassa rispetto a come modulavi, diciamo, 20 minuti fa, per intenderci. Ho capito. Considera diciamo che abbiamo fatto, diciamo, un trasferimento completamente notevole, perché adesso logicamente noi tu poni da uno scantinato a un grattacielo, quindi adesso noi siamo sul grattacielo. Poco fa io ero con lo scantinato, però evidentemente la modulazione di poc'anzi evidentemente magari riflette di più. Guarda, assolutamente, se hai, e così lo facciamo anche venire avanti Antonio, e così apprezza la differenza, se puoi rifare poi il passaggio con l'altro, che c'aveva anche quell'effetto ecco gradevole, accennato, così lo sente anche Antonio. Antonio, vieni avanti. Ok, ciao Sandro, mi sembra che tu moduli dal satellite. Più o meno, buonasera Antonio. Perfetto, questa modulazione va benissimo e il segnale va benissimo. Dio è buona, non toccare niente, perché questi effetti metallici che sento, guarda. La modulazione quando è buona deve essere pulito la radio, non ci deve essere questo effetto metallico, tante voci che sento, guarda, con questi apparati è un problema a volte regolarli. Avanti Sandro. Capo Antonio, sì, vabbè, poc'anzi come ha detto Salvatore, logicamente precedentemente diciamo stavo modulando diciamo con un altro apparato, niente diciamo a che fare con questo logicamente è un altro totalmente diciamo completamente diverso. Cosa ti posso dire? Siamo passati dalle scarpe da tennis alle scarpe che usiamo la domenica per dire in cuoio, capito? Quindi logicamente quello là magari c'ha un po' di effetto ecco che si porta dietro, questa invece la modulazione diciamo è più pulita, più selettiva. È affermativo. Aspetta un attimino, sa, ma mi sembra che poco fa ho sentito che c'è stato un break e qualcuno ha bussato. Avanti il break. No, non c'è. Ok. Sì, Sandro, comunque per me questa è la migliore modulazione. Poi, vabbè, gli apparati, lo sai benissimo, un apparato e l'altro, c'è differenza, tecnologia nuova e tecnologia vecchia. Sono parecchie cose, insomma, gli apparati. Che riprendi tu, Sandro. Ok. Beh, adesso sono ritornato al palmare, sempre con lo stesso apparato, però sono ritornato col palmare, col 34S, ho salvato, quindi logicamente magari adesso la modulazione ha cambiato completamente. Assolutamente sì, meno corposa, cioè proprio meno quantità si sente proprio nella trasmissione della vocalità. Sì, si sente una bella differenza. O considera anche una cosa, Sandro, è che quando io ho preso questo, in pratica il microfono credo che non sia mai stato usato, perché c'era un MC60 che però era stato venduto separatamente perché ne serviva solo quello prima ancora di che venisse venduto questo apparato a me, e quindi io sto praticamente utilizzando forse per la prima volta il microfono palmare suo in dotazione. Ok, no, ma va benissimo, diciamo che non è la classica modulazione, quella diciamo amplificata, distorta, diciamo che è la classica modulazione di fase, bella, chiara e limpida, in effetti diciamo che adesso stiamo andando a fare il passo, tutto lì. Ok, se mi date qualche secondo adesso magari cambio sull'altro così, cioè rimetto l'Antonio e che siamo qua che ti ascoltiamo, quando sei pronto basta chiamare. Salvatore, siamo rimasti solo noi due, anzi in tre veramente. Tutti gli altri hanno fatto su RT, o c'è qualcuno che sta ascoltando, bisogna vedere se Claudio sta ascoltando oppure ha spento completamente, perché domani mattina sembra che deve andare fuori Sassari a lavorare. Riprendi, Salvatore. In realtà siamo in tre e mezzo, perché c'è Gianni doppio room che, se non si è addormentato, ci sta ascoltando bellamente, vero Gianni? Prova a forza per premere il pulsante. Dove lavora Gianni? A Sassari? No, credo che lavori, che non lavori a Sassari. Va, ora c'è un po' di scariche ci sono. No, non lo so, non so se il tempo sta cambiando. Cosa ti volevo dire? No, infatti prima con Gianni stavamo parlando dei chilometri che lui si fa ogni giorno, praticamente fa un via vai di un'ottantina di chilometri in tutto. Sì, tra forse per il portatore, no, forse per il portatore sono di più, forse qualche zona lì di, diciamo. E tu cosa fai? No, io lavoro qui a Sassari, in un ente locale. Ma io non faccio più niente. Vabbè, non fai più niente perché evidentemente vuol dire che l'hai già fatto quando doveva essere fatto. Bravo, sì. Ormai io ho finito a baccare. Beh, vediamo un pochettino se c'è Sandro. Sandro? Eccomi qua. Siamo qua. Allora, Anto, so che magari siamo passati alle scarpe da tennis, dai, per ritornare, diciamo, al discorso di poc'anzi. Sì, dovresti abbassare qualche cosettina sulla questione della modulazione, però per me, diciamo, un segnale buono, la radio rimane un po' metallica come radio. Sì, però se mi permetti, Anto, hai notato che con questa modulazione si porta meno rumore di fondo? Sì, l'altro si porta un po' di ronzio appresso. È molto più pulita, è una... cioè, se Sandro non facesse l'affermazione in chi lo sta ascoltando, che adesso sta parlando con un apparato, diciamo, di classe C, invece prima stava parlando con un apparato di classe A, uno potrebbe benissimo dire: no, guarda che forse ti sei confuso, è il contrario. È affermativo. Vediamo, Sandro, hai abbassato qualcosa appena? Allora, guarda, io cerco di abbassare un attimino il mic gain. Ok, vediamo un attimino. Ok, vediamo un po'. Guarda, così è a 1. Per me è perfetto, a 1 vai benissimo. Perché se no si sente una specie di eco, cioè la voce che lì, si sente in lontananza. Allora, diciamo che l'effetto che tu senti, che sembra, diciamo, un effetto eco, è proprio, diciamo, la caratteristica dell'apparato. Salvatore, per te com'è? Allora, erano proprio le prove che abbiamo fatto prima e che ascoltavamo con Gianni. Così è, diciamo, è perfetto. A 2 però cosa succede? Gli dà un po' più di forza alla modulazione, al tempo stesso però inizia a trascinarsi, a portarsi appresso un po' di rumore di fondo, che è forse il giusto equilibrio. Così non c'è proprio niente, sul fondo è bello pulito, è vero, è incredibile. Hai notato la differenza, Anto? Sì, infatti è quello che gli ho detto. Se lui lasciava a uno come quando ci ha fatto il passaggio, prima era a 2, mi sembra, poi l'ha portata a uno, era perfettissimo. E se lo tiene a 1.5, guarda, è perfetto, lì non si dovrebbe più spostare. Però per me tra 1 e 1.5 va bene lui. Allora vediamo un attimino. Ok. No, perché non vorrei, perché siccome poco fa io ci avevo questo apparato qua, già il parlo ascolta, e non vorrei che entrasse dentro il parlo ascolta, vedi? Ok, adesso io l'ho eliminato completamente il parlo ascolta. Adesso io ho il MacGain a 1, adesso lo porto a 1.5, adesso è a 2. No, no, 2 è troppo. 1.5 è già un buon compromesso. 1 è la cosa migliore, 1.5 è un buon compromesso, 2 mi sembra un po' troppo. Ecco, cosa ne pensi? Sì, no, ma gliel'ho già detto io da poco fa, quando ha fatto il passaggio tra il 2 e l'1, e gli ho detto guarda, tienitelo tra l'1 e l'1.5, però se lo tieni a 1 è ancora meglio che non ti porti nulla presso, rimane più pulita. Ok, vediamo un po', così è 1, così è 1.5. Allora, c'è da dire questo, che siccome questo l'apparato, diciamo, sto modulando, diciamo, con un apparato, con un mic palmare, proprio dalla sua nascita, un apparato, diciamo, dove c'ha degli accorgimenti per l'effetto eco e varie cose. Talmente il mic è talmente amplificazione, considerando che adesso sono 1.5 e quindi già quasi la modulazione assorbe, diciamo, tutti i rumori, adesso magari assorbe anche qualche ventola qua che io uso, diciamo, giusto per aiutare, per raffreddare qualcosina, ma qualcosina si intende non di carico, così via, tipo l'alimentatore, quindi magari sollevando eccessivamente il back gain, diciamo, assorbe, diciamo, queste piccole cose. Lo sa, sono sconcertato però dalla differenza, dalla differenza di prima e adesso, fermo restando tutte quelle che possono essere le caratteristiche, per carità, non mettiamo in discussione, però in chi ti ascolta, se non sapesse niente, direbbe assolutamente, credo che possa dire, affermare che questa è una modulazione di gran lunga migliore rispetto a quella che facevi prima. Sì, senza ombra di dubbio, Salvatore, ma adesso stasera diciamo è stato, diciamo, che tu mi hai dato questo piccolo accorgimento e quindi abbiamo diciamo fatto questi piccoli accorgimenti qua e quindi siamo venuti, diciamo, a una soluzione, perché delle volte io ho l'abitudine di mettermi in cuffia e ascoltarmi, però da ascoltarti e da qualcuno che ti ascolta è ben diverso, come sappiamo. Tutto lì. Eh sì. Se mi scusate, devo andare a buttare la mondezza, per cui faccio un salto, faccio un bianco di un po' di minuti. Riprendi pure Antonio. Ok, Salvatore, il permesso accordato. Sandro, no, io te l'ho detto, cioè ormai le apparecchiature, insomma, un po' le sento, molta gente a volte ascolto, a volte si rovinano con questi microfoni preamplificati, mettono a 5 e sentivamo la fa un casino della marona, non si capisce niente. Invece la modulazione, quando per esempio sto usando il microfono normale, non ho neanche il microfono preamplificato, diciamo, mi piacerebbe metterlo, ma allo stesso tempo dico, ma perché modificare le cose quando sono nate così? Trovare qualche capsula, perché c'ho qualche capsula a vicchia io, a parecchio, e provare un pochettino a vedere come funziona messa dentro qua. Avanti, Sandro. Ok, dai. Ok, allora, vediamo un attimino se questo passaggio qua, perché adesso ci sto facendo un altro passaggio, vediamo un po', ha cambiato qualcosa o è sempre lo stesso? Adesso è, rimane più pulita la radio, non rimane proprio cuppa cuppa come quando stavi parlando prima, cioè quando stavamo chiacchierando. Questo rimane, diciamo, più leggerina, come se non ci fosse il microfono preamplificato, una voce normalissima. Ok, allora aspetta un attimino, io adesso sto portando leggermente il mic gain, da 1.5 l'ho portato a 5, è troppo? No, è troppo il mic gain a 5, no, prova a ridurre a meno a 2, vedi un pochettino a 2. Ok, dai, adesso te l'ho messo a 2, vedi un attimino. Così è perfetto, guarda, quando tu col mic gain lo metti a 2, sì, perfetto, guarda come radio. È pulita e non ti porti nulla presso. Ok, va bene, lo so, però torniamo sempre lì. No, diciamo che col tuo ragionamento non ho una piega, perché non ho una piega. Delle volte si usano i mic amplificati, giusto, per amplificarti un attimino la maturazione, però... cosa succede? Succede che la modulazione viene amplificata, viene rimbombata, delle volte magari eccessivamente, magari viene anche fastidiosa, perché viene fastidiosa. Sono d'accordo con te, col classico microfono normale, con la classica modulazione bella, pulita e chiara, senza che si porti, diciamo, chiamiamola bombetta, dai, scusando la frase. No, guarda, non c'è nessun problema, non stiamo parlando male, stiamo dicendo le cose come stanno. Io preferisco la radio, insomma, sia pulita, che non sia questo microfono preamplificato, wow, senti queste voci, tutta quanta quella roba lì. No, io preferisco che la radio sia bella e chiara anche quando ti starai facendo un collegamento, perché tu devi sempre ricordarti chi ti ascolta, che là arriva tutta quanta wow, e quello là dice: ma cosa cavolo stai dicendo questo? E via, ci deve sudare sotto per ascoltarti bene. Ed è un problema. Guarda, non è così semplice. Sì, vabbè. Ma sai, delle volte ognuno cerca di migliorare, diciamo, sulla modulazione, per rendere, diciamo, la modulazione, diciamo, più grintosa, più aggressiva, però nello stesso tempo, diciamo, la stiamo frastornando questa modulazione, capito? Non è una modulazione di fase, la classica modulazione bella, pulita e tranquilla. Va bene, su questo discorso non ci piove, tanto d'accordissimo. Ok, no, vabbè, adesso dipende, magari, capito, io adesso ho fatto il passaggio, poco fa con l'osservatore stavamo facendo alcuni passaggi, alcune prove, quindi sappiamo benissimo che un apparato ha delle caratteristiche, un altro apparato ha delle altre caratteristiche, quindi piccoli accorgimenti e così via, ma poi a fin dei conti diciamo che sono relativi, tanto diciamo che l'apparato lo usiamo soltanto, diciamo, per farci le nostre piccole chiacchierate, qualche collegamento quando capita di propagazione, diciamo, queste cose qua, poi alla fine dei conti siamo sempre lì. Ma in effetti è quello, cioè io, guarda, io ti dico questo, ho avuto un apparecchio bellissimo, il 27, valvolare, c'avevo un Tanner, l'M+2 mi sembra, no, il Tanner da tavolo, e l'apparato in se stesso, dove potevi mettere il ringibus acceso e spento, ti dava un'altra caratteristica di modulazione. Più mettevo il microfono preamplificato, ma a 1.5-2, non più di tanto, no? E più c'avevo una signora scappetta che ogni tanto la utilizzavo e ce l'avevo a morte con gli spagnoli, perché finché c'avevi 5 watt non ti cercava nessuno. Poi quando ha iniziato a mettere su qualche cosettina un po' grossetta, e, diciamo, erano loro che ti chiamavano, no? Perché sentivano il segnale che arrivava forte. Sì, beh, quello diciamo capita quando abbiamo propagazione che i signori spagnoli diciamo li, ci arrivano diciamo alla grande, capito? Ci arrivano a saette, ma poi magari diciamo la propagazione che è favorevole, poi diciamo che per la Spagna siamo abbastanza favorevoli, sì. Capita, ma guarda, io ti posso dire, io diciamo che nella 27 ci sono circa, ci sono dagli anni 76, quegli anni lì, 76-80, ma guarda, tante girate, tante fatte, e poi se ci facciamo un ragionamento, diciamo, il nocciolo diciamo della 27 è sempre quello là. Sì, io te l'ho detto, io ho smesso nel 77, ho smesso io di modulare, cosicché 73 e poi 77 ho smesso, se no avrei continuato, però poi ho smesso, perché ho detto una volta che mi collego il Brasile, io ho di modulare, infatti ho collegato il Brasile me ne sono collegato, erano le 5 e mezza di pomeriggio, ma c'era una propagazione, ho dovuto usare tutto quello che avevo in corpo nell'apparecchiatura, ho dovuto fare spazio proprio per collegare il Brasile. Collegato al Brasile ho smesso di modulare in frequenza. Mi prendi il salmo? Vabbè, diciamo che hai voluto raggiungere diciamo il tuo obiettivo. Sì, vabbè, ma diciamo che adesso quando ci sono quelle giornate di propagazione, diciamo che io ho fatto diversi collegamenti, diciamo, cioè addirittura c'ho vecchi QSL, diciamo che sono diciamo delle nostre piccole soddisfazioni noi che moduliamo sulla 27, diciamo, ma io mi ricordo anni addietro, adesso per dire la 27 la vedo più performata, la vedo più carica di QRM, carico di disturbi, adesso non so se forse è derivato diciamo dalla chissà da che cosa. Ma io mi ricordo di una volta in macchina lì a Palai, sentato conosci Palai, con un classico Midland, allora c'avevo un Midland 68, senz'altro conoscerai, 4-5 watt, un macchino normale, a parte l'isola delle Canarie così, a livelli come potremmo essere noi, per me era diciamo un obiettivo, diciamo, come potrebbe essere stato il tuo, diciamo. Eh sì, la spama da Gran Canaria, me ne sono fatte tutte quelle. Addirittura uno gli ha detto che gli mandavo la QSL in sughero, gli mandava la cartolina, la bandiera con un poster con il torero. E lui, sì, stai tranquillo che te lo mando. Quando gli ho promesso che gli mandavo la QSL in sughero, tu figurati un po', stava proprio impazzendo dalla gioia. Sì, quegli apparecchi li ho conosciuti tutti quanti, poi tutte le QSL, il cliché, ho regalato a Tore, ah, vabbè, il padre non si trova più, lavorava all'Enel, che va l'elettricista, lui adesso è un rappresentante sindacale di una confederazione sindacale. Ah, sì, ho capito, Tore, sì, ci conosciamo, anche se ci vediamo raramente, però ho capito, sì, e vabbè, diciamo che qui a Porto Torres, diciamo, la maggior parte, diciamo, dei componenti della 27 la maggior parte è sparito tutto. Noi attualmente adesso c'è Gian Paolo Silvestro, un vecchissimo modulatore della 27 che senz'altro conoscerai, magari hai sentito più volte, però ti posso dire che qui a Porto Torres qualche antenna ancora sul tetto si vede, però per la maggior parte, guarda, la maggior parte è nuda e cruda, la 27 a Port Forrest. E vabbè, magari preferiscono il computer, preferiscono altre cose. Diciamo che almeno per me fino adesso diciamo è una passione diciamo che ancora mi è rimasta, anche se ho smesso diciamo un certo periodo, poi ho ripreso. Ci sono diciamo quei momenti dove ci sono tutte queste, dove ci sono le pause un po' per tutto, là. Tutto lì, va bene. Ok, Antonio, mi ha fatto piacere di questa bella chiacchierata. Ti devo lasciare perché ho il mio quattro zampe da portare a far la sua passeggiatina. Dai, se coincide tutte le prossime, ti auguro una buona serata, un buon proseguo e alle migliori. Ok, riprende allora stazione 1, stazione Romeo Primero, operatore Antonio. Va bene, Sandro, casomai ci sentiamo le prossime. Comunque ce l'ho amici lì a Porto Torres, vecchi CB, gente che abita lì al satellite che non sta più entrando, baracchino. Poi non so se sta più modulando Antonio, non mi ricordo come si chiama il cognome, che lavora, porta l'ambulanza dell'Avis, abita, mi sembra, non so se abita ancora dietro il comune lì a Porto Torres. Antonio che porta l'ambulanza, no, non ce l'ho presente, ma aspetta un attimino, non è che tu intendi Antonio Sceriffo? No, non lo so, no, in occhiali, ma lavorava mi sembra al porto, mi sembra era portuale, è andato in pensione, faceva l'ambulanza a Porta dell'Ave di lì a Porto Torres quando gli tocca i servizi. Antonio, il cognome non mi viene, guarda. Antonio, porta l'ambulanza. Ma aspetta un attimino, allora io adesso sto tornando un attimino dietro con i tempi logicamente. Antonio, ma dimmi una cosa, faceva mica il ferroviere e abitava lì vicino a quelle case, mi sembra, della ferrovia vicino a Pinalta? No, abitava, guarda, dietro il comune, una traversa un po' in alta la traversina, non mi ricordo il cognome, guarda, no, se ci fosse stato Flavio, ci avrebbe detto Flavio. Aspetta, alto, grosso e in occhiali? Beh, alto, grosso, sì, grosso, sì, non molto alto, è su 1,70 m, penso. Antonio Pirino, c'era anche un vespino? Mi sembra, mio Dio, mi sembra un vespino rosso, mi sembra che avesse. Mi sembra di sì. Non ricordo, comunque casomai se ci troviamo c'è Claudio, lo chiediamo a Claudio. Quello lì e poi altra gente anche. No, ma allora stai dicendo il povero Antonio Pirino. Il povero Antonio Pirino, sì, che adesso è entrato in frequenza il figlio Gabino. No, non te lo so dire, vabbè, qualche sera che ci troviamo io e tu e Claudio, chiediamo a Claudio già se lo ricorda bene. Veglia. Vabbè, dai, Antonio, ti lascio, tutte le prossime. Ok, Sandro, buona passeggiata con il quattro zampe. Cos'è, Pastore? No, l'ho avuto il pastore tedesco, l'ho avuto, ma purtroppo qua in casa, diciamo, no, io diciamo che ho un ufficio, una taglia piccola. Capito, no, credo fosse il pastore tedesco, l'ho avuto anch'io, guarda, mi è spiaciuto, mi è sparito. Guarda, dal pastore tedesco ho dei tantissimi ricordi, ma bellissimi. Ti posso dire che nella pastore tedesco, diciamo, niente in contrario per altri filippiani, però il pastore tedesco penso io, per me, perché ho avuto la mia esperienza, ne ho avuto mi sembra due, però dei signor cani, guarda, ne ho avuto uno che gli mancava soltanto la parola, guarda, era affettuosità, guarda, allucinante, guarda. Purtroppo poi gli si è preso, gli si è presa, addirittura questo era anche puro, gli si era presa quella malattia lì alla schiena, ha cominciato a passarsi e così se n'è andato. È il classico problema del pastore tedesco. Purtroppo è quella, no, io l'ho avuto, abitato in campagna, l'ho avuto e stava sempre appresso a mio figlio quando ha iniziato a uscire con la bicicletta lì in campagna, e stava sempre davanti, infatti mi diceva a me, ma il cane, tu non hai capito che fa la guardia a te quando tu esci in bicicletta, no, guarda, se fosse un figlio, guarda, il pastore tedesco, per me, guarda, mi ha dato tante di quelle soddisfazioni, no, io non lo cambio con nessun altro caso. Sì, no, guarda. Cosa ti posso dire, guarda, adesso mi hai fatto vedere un po' la pelle d'occa, perché sono tornato indietro con i vecchi tesi, no, guarda, è allucinante, guarda, è come cane, guarda, io guarda, mi ho fatto un pianto di quel cane lì, guarda, perché era una cosa allucinante, guarda, era affettuosissimo. Però guarda, c'era questo da dire, lui era padrone del suo territorio, lui era padrone, ti osservava, ti faceva. Addirittura questo qui, quando gli facevi uno sguardo, quando gli facevi una cosa, lui è come che dentro se stesso avesse una memoria, avesse una macchina fotografica, ti registrava. Magari chi rivedeva, non so, dopo 15 giorni, dopo un mese, dopo due mesi si ricordava, si metteva su chi farà, si guardava il cagnesco, ricordando magari che gli avessi fatto qualche sgarbo, però non era il classico che ti azzannava o che ti faceva capire che non gli andavi molto a giglio. È così, guarda, si è raccontato, vabbè, ok, state. Faccio andare così forti il cagnolino fuori a fare i suoi bisogni, da qualche sera quando mai ci troviamo e parliamo di nuovo del pastore tedesco. Ok, vediamo un po' se Salvatore è rientrato. Ok, ciao Sandro, alle prossime allora. Salvatore, se ci sei, batti i due colpi. Sì, ok, dai. Bravo, ciao Salvatore, Salvatore, ciao Marco. Ok, ciao Sandro.